Rappresento con i beats il flow, il suono dell'hip hop, dalle strade fino ai parchi da show. Se mi vuoi così mi avrai ok. PCZ. Sto inseguendo un sogno ma non guardo in alto. Il torcicollo e il sogno è stare fermo e mi rimbomba intorno. Non son fiero di essere un b-boy ma un uomo. Son questo b-boy perché son questo. Non sono fiero.